Lascia che il tuo sguardo faccia rotta verso posti lontani, dove la coerenza cede il passo all'entusiasmo dei sogni. Fantastiche illusioni, meraviglia dell'umana virtù. Cercare qualcosa di più. Domani, ancora domani. Biografico profilo e la memoria dell'essere vivo. Diligente e impersonale nel giudizio, nel suo modo oggettivo. Sarà il rimpianto testimone del passato a raccontare chi siamo. O le singole cose che viviamo. Domani e ancora domani sarà. E tutto ruota intorno a noi. E gira e non si ferma mai. E ad ogni briciola di tempo. Mutazione, il divenire al naturale destino, incorruttibile decorso altalenante, equo senso non ha.